Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. A questo punto, come ogni prima settimana di Eclettica, io dovrei dirvi qualcosa del tipo: benvenuti come ogni settimana qua con Giulio Caperdoni per Eclettica, tutti i giorni fra le 19 e le 20, il tutto è disponibile anche in podcasting. Potrei anche dirvelo, perché in effetti questa settimana sarà così. Ma è comunque l'ultima settimana in cui succede tutto questo e quindi mi trovo un po' a disagio a dirlo come se fosse una settimana qualunque. In effetti la prossima ci sarà ancora come settimana, ma sarà l'ultima settimana di Rock FM in assoluto. Ci sarà la 24 ore che partirà dal 30 di maggio, dalle 18 del 30 di maggio. In quella 24 ore ci sarà sì un'eclettica edizione speciale con gli incipit scelti dalle altre voci di Rock FM eletti da loro stessi. Sceglieranno anche i film. Un'eclettica in edizione speciale che andrà in onda in un orario completamente diverso, ancora non stabilito. E invece per quanto riguarda i quattro volumi rimanenti, quelli dal lunedì al giovedì di settimana prossima, ci saranno. Sarà un'eclettica sufficientemente normale, però cambierà l'orario fra le 20 e le 21, in quanto fra le 19 e le 20, nella maggior parte dei giorni della prossima settimana, avremo degli amici, degli artisti che ci verranno a trovare qua nei nostri studi. Voi non sapete nulla di me, a meno che non abbiate letto un libro chiamato Le avventure di Tom Sawyer. Ma non importa. Quel libro fu scritto dal signor Mark Twain, che per lo più disse la verità. C'erano delle esagerazioni, ma per lo più egli disse la verità. Questo non dimostra nulla. Non ho mai conosciuto nessuno che una volta o l'altra non dicesse bugie, eccetto zia Polly o la vedova, o forse Mary. Zia Polly, la zia di Tom, cioè, e Mary, e la vedova Douglas. In quel libro ci sono tutte ed è un libro per lo più sincero, con qualche esagerazione, come ho già detto. Questo era l'incipit delle avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. Yeah. partire. Non dimenticare mai chi sei e da dove vieni. Figlia mia. Mamma, la mia bacia. Glory to the World, questo è il titolo del pezzo che si è appena chiuso, Il Perro del Mare, il nome del progetto, un progetto che, nonostante il nome, proviene dalla Svezia. Prima ancora Italia, After Hours, un estratto dal loro ultimissimo, Pochi istanti nella lavatrice. E questo è il titolo del pezzo che sostituisce negli orari di Eclettica il singolo, che invece sentite in rotazione negli altri orari di Rock FM. Per rimanere però in Italia, perché è arrivato il momento del nuovo singolo, disponibile solo in download digitale da parte di Julie's Haircut, che stanno registrando con Andrea Rovacchi al Bunker Studio di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, quello che sarà il loro nuovo album che uscirà su Home Sleep. Ancora qualche mese bisognerà attendere. Sleepwalker è il titolo del nuovo di Julie's Haircut, che è dotato anche di un video particolare, il frutto di un esperimento. È stato filmato esclusivamente con webcam integrate da 12 laptop Apple disposti attorno al gruppo. Io ho solo letto la nota stampa, ancora non l'ho visto. Mi immagino che possa essere in effetti qualcosa di molto particolare. Julie's Haircut, questa è Sleepwalker. We'll be right back. Nessuna risposta. Tom! Nessuna risposta. Dove si è cacciato sto ragazzo? Tom! Nessuna risposta. L'anziana signora abbassò gli occhiali e ci guardò per di sopra, intorno nella stanza. Poi se li alzò e ci guardò per di sotto. Di rado, o quasi mai, ci guardava attraverso, per una cosa da niente come un bambino. Dato che questi erano il suo paio da festa, l'orgoglio del suo cuore, ed erano stati fatti per lo stile, più che per la praticità, avrebbe potuto guardare attraverso un paio di coperchi da stufa, per quello che cambiava. Rimase perplessa un attimo e disse, neanche tanto arrabbiata, ma abbastanza forte per farsi sentire dai mobili. Veh, se ti metto le mani addosso, giuro che... Questo era l'incipit de Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain. This is my last song about myself, about my friends, found something else to sing. Try and patch it up with tape and twine, babe, I just break everything that's mine. They wheeled out my casket, they said, boil it down your head. I said, oh shit man, I ain't even dead. I won't be buried for I'm you know your friend who's a real yo-yo, and she's always crying and no one knows why. She's gonna be alright. Lost her best in a fuzzy fight, wasn't even drunk, just a little tight last night. And they took her to the doctor, fix her heart and heal her head. She said, goddamn, I'm tired of being bled. Go save somebody else's friend of mine, drink something fine, choke to death the first time last. periodo, andare al supermercato fu uno dei miei passatempi preferiti. Passatempi preferiti. Passatempi preferiti. Insomma, dovevo farmi in fretta degli amici. Per mia grande fortuna, al liceo francese potevo capire gli altri e, eventualmente, farmi capire. Hai una paglia? Diventai subito un centro di interesse per gli emarginati del liceo. C'erano Momo, Thierry, Olivier e Eve. La mia nazionalità e la mia storia li affascinavano. Hai visto una rivoluzione e una guerra? Beh, sì. E hai visto tanti morti? Qualcuno. Wow. Pazzesco.